vostro mattino. Alle 8, 18 minuti e 45 secondi inizia la terza parte di 24 mattino di giovedì 19 novembre. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, bentornati. Alle 8 e 35 parleremo di vaccino e di Novax. I dati che vi abbiamo raccontato anche ieri, quelli dei sondaggi che raccontano di un 35% di persone che dichiara di non volersi vaccinare dal Covid anche nel caso il vaccino arrivasse, ci hanno colpito molto ed è anche un momento, sarà anche un momento per fare un punto appunto su proprio su sui vaccini, su le percentuali di efficacia che continuano a crescere, sui piani per distribuirlo. Avremo con noi Nicola Magrini, il direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, che si è detto disponibile anche a rispondere a qualche vostra sollecitazione, se ci saranno, all'800 24 00 24 se volete intervenire in diretta. C'è sempre anche il 349 238 6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, messaggi SMS e messaggi WhatsApp. È il momento, come sempre, di fare un punto di giornata con il nostro Paolo Mieli. Ciao Paolo, buongiorno. Ecco, buongiorno. Abbiamo già le notizie di domani, non comincerei da questo, perché 8 minuti fa in Calabria è stato arrestato Domenico Tallini, 68 anni, di Forza Italia, presidente del Consiglio regionale della Calabria e aderente, secondo l'accusa, alla cosca Grande Aracri. Quindi questa Calabria martoriata, domani mattina ce ne occuperemo quando sapremo di più di questo arresto, che è stato molto spettacolare. Ma oggi io aprirei su un'altra cosa, sui intanto morti, scusami Paolo, rimando invece per nell'arco della giornata per tutti gli aggiornamenti a GR24 che si sta già mobilitando sulla vicenda, quindi rimanete ben collegati. Su cosa volevi aprire oggi, Paolo? Però non dite troppo, perché deve rimanere spazio per noi due domani mattina, certo. Quindi date solo l'essenziale per l'informazione. Vai, no, Paolo. Se toccate ferro, io inizierei sui morti. Ieri le vittime sono state 753, perché noto che Enrico Mentana tutte le sere apre il telegiornale su questa storia dei morti dicendo una cosa giusta, che tutte le altre cifre sono ballano, perché tu non lo puoi mai sapere, pochi tamponi, molti tamponi, pochi tamponi il sabato, però i morti sono una costante e i morti ci dicono che noi siamo un paese record al mondo, cioè siamo secondi solo al Messico e all'Iran e abbiamo un numero di morti pari quasi agli Stati Uniti, che hanno 6 volte la nostra popolazione. Ora è un dato curioso, perché poi tutte le stupidaggini che si dicono, ma noi abbiamo una popolazione un po' più anziana, un po' più malmessa, sì, sarà sicuramente questo, ma non mi sembra che siamo in Matusalemme del mondo, che abbiamo, che ne so, in Florida sono tutti più anziani di noi, vanno tutti gli anziani d'America, eppure non hanno in tutta l'America agli stessi morti che l'Italia, tipo ne avrà 800 e l'Italia ne ha 700. Ci deve essere qualcosa che io associerei a un'inchiesta che ha fatto il Guardian, che stamattina si è domandata: ma come mai l'Italia, che era in vantaggio questa volta, mentre l'altra volta fu la prima a essere travolta dal virus, ma questa volta a settembre l'Italia poteva assistere al fatto che Francia, Spagna e addirittura la Germania erano travolte in anticipo, come mai invece di prendere misure per parare questa eventualità si è buttata a capofitto ed è ha riconquistato questo triste primato? Te lo chiedo a te, guarda, non voglio che mi rispondi stamattina, però poi dovrai rispondere. Indagheremo. Bisognerà rispondere, perché è una cosa che lascia curiosi. L'altra volta avevamo l'impreparazione, l'imprevisto, ma questa volta era tutto chiaro da settembre. Io e te ne abbiamo parlato lungamente, tante volte, eppure, vabbè, niente, comunque. E poi c'è tutto il dibattito, il recovery fund. Sì, questo, guarda, questo è un tema che mi ha incuriosito molto, Paolo, o meglio, incuriosito, anche preoccupato se vuoi, perché oggi abbiamo qualche quotidiano, per esempio il Sole 24 Ore, che apre sul fatto che in manovra vengono messi questi 120 miliardi per il prossimo triennio, presi appunto da Next Generation EU, dal recovery fund, dai soldi europei per intenderci. Poi li dobbiamo restituire questi soldi, io non capisco regolati. No, in parte sì. Però l'accordo non c'è, ragazzi. Questo. Certo, l'accordo non c'è, questi 30, e poi comunque hai detto in parte sì. La parte da restituire, se ho capito bene le cose che ci vengono da mezza Europa, non li restituiamo perché forse ce li abbonano, no? No, questo è quello del quale, questo era l'ipotesi, la famosa ipotesi David Sassoli, del presidente del Parlamento Europeo, il quale però ieri, a fronte di quello che ho scherzosamente definito ieri lo scappellotto arrivato da Nicola Zingaretti, ha deciso un po' di ripensarci a questa storia del debito. Lo sentiamo. Ci sono nella storia tante esperienze, c'è anche la perennizzazione del debito, gli economisti lo sanno bene e che cosa, quali conseguenze potrebbe, certo, benefiche potrebbe avere su questa materia. Io non voglio chiudere il dibattito, non abbiamo delle proposte, credo che in questo momento sia bene suscitare proprio l'interesse intorno a una politica comune. Quindi non l'ho detto, solamente per suscitare il dibattito, no? Una mezza marcia indietro. Poi questa me la segno, perché io vorrei che tu mi prestassi 1.000 euro e poi ricorriamo alla perennizzazione del debito. Cioè ti pago solo gli interessi, ti pago solo gli interessi sì, per chissà quanto. Secondo me la perennizzazione del debito è un'ottima soluzione, tu prestameli e poi parliamo della perennizzazione. Ma insomma, ripeto, anch'io delle cose che ho già detto, a me sembra incauto nel momento in cui stiamo trattando con l'Europa con grandi difficoltà per ottenere dei soldi in prestito, parlare anche solo di perennizzazione mi sembra imprudente. Comunque cresce il fronte di quelli che dicono non se ne parla nemmeno, rinviamo, prendiamo tempo. E la manovra noi invece la stiamo costruendo come se quei soldi fossero già arrivati, noi le calcoliamo, siamo tutti lì impegnati, Berlusconi fa capire che la voterà, nel resto del centrodestra sono furibondi, tant'è che anche Fratelli d'Italia, questo mi ha colpito, si è schierata contro quella norma anti-Vivendi, che era la norma per difendere Mediaset dall'assalto francese, e Berlusconi è infuriato, però prima si era schierato contro questa norma solo Salvini, adesso si è schierata anche Fratelli d'Italia. Cioè questo modo spedito di procedere in avvicinamento al governo ha inquietato anche la Meloni. Gad Lerner si chiede: ma come mai noi della sinistra siamo specialisti, lo fa sul fatto di salvare sempre Mediaset, dovremmo essere, questo lo dico io, dovrebbero avere un stipendio per questa cosa, perché sono bravissimi nel salvare. E Conte, mi chiederai, Conte si occupa solo della norma sulla cyber security, cioè quella per salvare la vita e la forza di Gennaro Vecchione, che è il suo uomo di fiducia, più quasi di Arcuri, che la sinistra gli ha tolto dalla manovra, perché poi in questa manovra finisce tutto. Certo. E lui ce lo vuole rimettere, insomma la sua occupazione principale è di salvare il suo rapporto con i servizi segreti, e secondo me questo vorrà dire qualcosa quando uno tiene molto al capo dei servizi segreti. Dice che sente la sedia che balla il Presidente del Consiglio, la dico pesante, la dico brutta. Io penso semplicemente che è meglio avere dalla tua il capo dei servizi segreti, che sia un tuo caro amico. No, lui c'ha anche Arcuri, perché ha dato, certo, Arcuri, l'ha riempito di incarichi, anzi vedo che partono le prime inchieste. Oggi ho visto sulla verità, che vanno a vedere dove sono finiti certi soldi di Arcuri, a un uomo di Prodi, a un giornalista, e stanno, però sono solo all'inizio. Sì. Ripeto quello che dissi ai tempi su Sala e la Lombardia. Aspettate, stiamo nel pieno di una pandemia. Le inchieste fatele dopo, prima, perché è improbabile che finiscano in qualcosa, hai visto quelle sulla Lombardia, stanno ancora lì che galleggiano, e secondo perché non è, il capo dello Stato dice sempre concordia, unità nazionale, beh almeno questo, non siate impazienti di impiccare il vostro nemico a un'inchiesta giudiziaria, anche perché poi le inchieste giudiziarie finiscono, ti ricordi, ne abbiamo parlato, come quella di Bassolino, 19 processi, 19 assoluzioni. Però oggi ho visto un giornale riformista che mi informa che i due magistrati che lo hanno messo sotto processo, si chiamano Paolo Sirleo e Giuseppe Noviello, hanno fatto una carriera strepitosa. Certo. Cioè, uno è diventato un beniamino del suscitato Nicola Gratteri e anche di Andrea Orlando, compagno di partito di Bassolino, se l'è preso, e tutti e due, come fu per i magistrati che si occuparono di Tortora, sì, se tu fai dei processi non ne hai il documento ed è un bene questo, anche se sono anche se poi risultano ma perché la buona intenzione non la puoi discutere. Loro tutte e 19 le volte erano convinti, non saranno stati sempre loro tutte e 19 le volte erano convinti e non e quindi meritano di fare carriera in nome della forza delle loro convinzioni, in nome. E sempre dei magistrati, Davigo si è messo a litigare con Renzi, anzi vabbè, Renzi lo ha querelato. Sì, nelle aule, però niente di nuovo sul fatto che Davigo e Renzi litighino. Mentre invece ho visto che forse sostiene il Foglio e forse Calenda potrebbe fare un passo indietro come sindaco di Roma. Hai visto? Cioè, un'ipotesi di questo tipo sta circolando. Sì, l'ho visto, anzi, danno un grande spazio a questi ipotesi. Hanno preso una sua dichiarazione a Sky, la interpretano. Forse si dedicherà più a fare il partito di cui abbiamo parlato ieri. Sì. Tra l'altro Paolo mi ha scritto qualche amico di Azione, di Più Europa, dicendo: beh, ieri hai fatto un po' troppa ironia su di noi, su questa fusione qua. Sai cos'è? Che quando uno vede due partiti un po' liberali che provano a mettersi insieme, pensa sempre alla fine che hanno fatto i liberali in Italia negli ultimi 30 anni, e dice vabbè, insomma, però vediamo, in bocca al lupo comunque, ovviamente, ad Azione, a Più Europa. In bocca al lupo a Munisco, in bocca al lupo sia a Emma Bonino che a Carlo Calenda. Berlino è travolta da marce di negazionisti veramente imponenti, e in Svizzera la Svizzera è allo stremo, il paese che sta peggio messo e che non se lo aspettava, perché nella prima ondata fu poco coinvolta per il Covid, e un grandissimo personaggio che è un economista medico, Willy Ogier, che è un personaggio di Kusnacht, che è un sobborgo di Zurigo, ha fatto una proposta che fa discutere, che ai negazionisti che sono in fin di vita non devono avere la precedenza nelle terapie, mettiamola così. Dice, questi hanno, perché non è tanto per l'ideologia, ma che è un'ideologia che porta alla diffusione del virus. Andate in giro senza mascherina, volete fare, quando arrivate in ospedale diamo prima il posto, però si stanno accapigliando, perché alcuni dicono che non è vero. E come altra proposta che sta facendo accapigliare in modo buffo l'Europa è quella di Annie Hidalgo, la sindaca socialista di Parigi, che ha detto: in vista del Natale non comprate, fatemi il favore, su Amazon, comprate nei negozi, nei negozietti, aiutateli a sopravvivere. Quasi tutti gli intellettuali francesi sono uniti a questa proposta della Hidalgo, l'hanno trovata molto sensata. Da noi solo Salvini, pensa che bizzarro. Sì, veramente. Salvini, c'è un asse Salvini Hidalgo. Salvini intellettuali francesi, no? L'idea dell'intellettuale francese col dolce vita da una parte e Matteo Salvini dall'altra. Non è male questa. Paolo, dobbiamo veramente chiudere, veramente chiudere. No, prima fammi dire che George Clooney ha regalato 1 milione a testa a 14 amici che gli furono vicini nei momenti in cui era povero, se la passava male. Gli ha fatto trovare uno zainetto con ognuno un milione. Pensa che bravo George Clooney. Lo farò anch'io con te, perché mi sei stato vicino in momenti difficili. Bene, bene, aspetto, sono qua che aspetto. Aspetto lo zainetto. Ciao Paolo, a domani. Ciao. L'audio che sentite è l'audio col quale iniziamo questa parte della trasmissione, arriva da Berlino ed è un audio di ieri della manifestazione dei cosiddetti negazionisti del virus, i no mask, coloro che sostengono che il virus non esiste, che è un complotto di qualche tipo. È una fetta di popolazione in parte coincidente con coloro che non si fidano dei vaccini, che non ci credono e che sono un numero consistente, stando almeno ai sondaggi. Il sondaggio del quale parliamo in questi giorni, che è un sondaggio Ipsos, ci racconta che il 35% degli italiani non ha intenzione di vaccinarsi nel momento nel quale arrivasse il vaccino per Covid e che un 15% non lo sa. Di questo e anche dello stato di avanzamento dei vaccini parliamo con Nicola Magrini, direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, che torna da noi. Magrini, bentornato, buongiorno. Buongiorno a voi. Avete detto che per avere per essere fuori dalla crisi pandemica ci vuole un 70% di popolazione immunizzata, ossia di popolazione che ha fatto il vaccino. A fronte di questo, Magrini, i numeri che escono da questi sondaggi in un paese che ha già dimostrato una certa resistenza ai vaccini, tanto che si è dovuti arrivare ad un obbligo in alcuni casi, vi preoccupa? Ma sì, ci preoccupa certamente, ma eravamo consapevoli del movimento paura vaccinale, non so, traduzione di vaccine hesitancy, che è una paura diffusa e generalizzata, certamente non limitata all'Italia, come avete evidenziato dal vostro servizio, quindi che siano dei maggiori fattori d'ostacolo e che vada quindi superata gradualmente con misure adeguate di informazione, di coinvolgimento, lo sappiamo e non va, come dire, contrastata né con facilità né con semplici atteggiamenti di sono poveri, ignoranti, non sufficientemente preparati sulle questioni scientifiche. Volevo però dire che la cifra del 70-75, insomma, di raggiungimento di un'immunità di popolazione o di gregge, che dir si voglia, significherebbe la cessata circolazione del virus. Ecco, quindi è un obiettivo molto ambizioso, sarebbe come dire la scomparsa completa della malattia. Il vaccino consentirà anche, se i dati sono confermati e la sicurezza è piena, di ridurre il contagio nelle categorie a rischio. Questo è il primo obiettivo che ci conforta maggiormente come raggiungibilità. Devo dire, Magrini, per quel che conta, da persona che si occupa di comunicazione, sono molto d'accordo con lei, cioè l'atteggiamento di superiorità che ogni tanto vediamo nella comunicazione nei confronti di chi ha dei timori più o meno legittimi nei confronti dei vaccini, timori. La legittimità non è non è in contrasto con la scienza, è il fatto semplicemente di avere paura, che è un sentimento perfettamente umano. L'atteggiamento di superiorità non serve a coinvolgere queste persone, probabilmente ci vorrà una campagna di comunicazione che possa essere avvolgente, una campagna di comunicazione che porti alla comprensione il più possibile di quello che rappresentano appunto i vaccini. Su questo fronte, Magrini, noi assistiamo a un po' a questa sorta di guerra delle percentuali, no? Abbiamo visto che nel momento nel quale è uscito fuori il vaccino di Moderna, che hanno detto che era efficace al 94,5%, Pfizer ha detto: abbiamo dei nuovi dati e ci dicono che il vaccino è il nostro, è efficace al 95%. Ecco, anche a fronte di questa comunicazione che arriva dalle aziende, fatichiamo ad orientarci, e forse anche su questa base nasce un po' di scetticismo. Che dici? Dico che i dati comunicati, se vogliamo, come forma di condivisione immediata per stimolare un convincimento che i vaccini sono in una fase avanzata e arriveranno, a mio avviso è servito però anche a generare un po' di diffidenza, perché i dati da vicino nessuno li ha visti, e quindi i dati per essere visti e condivisi vanno o sulle riviste scientifiche o alle agenzie regolatorie o ad entrambi, che è la cosa migliore, affinché siano valutati nel modo più dettagliato e critico, anche perché questi 90%, tra 90 e 94 non c'è differenza, viste anche immagini di confidenza di queste prime stime, sono comunicazioni purtroppo difettose. Dire 90%, uno si immagina che di 100 persone 90 non prendono la malattia, o è interpretabile in vari modi, mentre significa che in studi di grandissime dimensioni, uno è di 30.000 pazienti e l'altro è di 44.000, neanche pazienti, cittadini sani ai quali è stato somministrato o il vaccino o il placebo, in un gruppo si è comparsa la malattia da Covid in 90 pazienti e nell'altro 5, e nell'altro 160 contro 9. Quindi, ha capito, i numeri del 90% di riduzione relativa sono questi, e solo dopo che li avremo potuti guardare in dettaglio, resi credibili e resi condivisi, saranno probabilmente da comunicare nel modo dovuto, cioè che la larga parte dei cittadini che farà il vaccino ha una copertura per una malattia che non tutti prendono allo stesso momento, e che quindi è una forma di protezione di fondo. Magari quando li avrete in mano i dati voi come agenzia regolatoria, appunto? Li avremo in mano quando saranno consegnati i dossier con questi studi di cui parlano i giornali, non sono ancora giunti, dovrebbero arrivare all'Agenzia Europea nelle prime settimane di dicembre. L'Italia fa parte dell'EMA, saranno approvati a livello europeo, così funziona il mercato dei vaccini, dei farmaci più importanti, biotecnologici per i tumori, e quindi siamo in attesa di riceverli. Poi penso che un'agenzia seria debba valutarli con calma e serietà nell'arco di alcune settimane. I tempi così stretti per la realizzazione di questi vaccini, cosa, Magrini, che voi stessi, voi scienziati, non avreste potuto immaginare? Se vi avessero detto un anno fa, no? È possibile creare un vaccino in 6 mesi, in 8 mesi, avreste detto no, ragazzi, non ci pensate nemmeno. Ci devono preoccupare questi tempi così stretti? Devono anche confortarci, perché credo che questi sforzi così produttivi e così di lavoro giorno e notte per tanti siano prova del fatto che questa epidemia, questa brutta pandemia, nel senso di epidemia globale, ha comunque tirato fuori anche il meglio delle persone, e quindi che così tanti gruppi si siano attivati per diverse tipologie di vaccini è positivo. Molto, allo stesso tempo non si saltano i passaggi, e quindi non si è approvato nessun vaccino basandosi solo sulla risposta immunitaria, che peraltro è buona. Questo è stato un rischio che è stato immediatamente cancellato dalle agenzie regolatorie, che ha detto: non si approvano i vaccini sulla base degli anticorpi soltanto, vogliamo i dati che funzionino, li stiamo aspettando, li valuteremo, e poi scatterà anche un programma di sorveglianza attiva su possibili effetti indesiderati rari, che vanno comunque monitorati con grande attenzione, fa parte della ricerca. Resti con noi, una pausa. Mattino. Personalmente non è che non mi fido del vaccino, non mi fido di chi lo produce e di chi lo smercia, non mi fido delle case farmaceutiche, non mi fido assolutamente dei governi. Io credo che esiste il virus, che i morti muoiano, perché l'ho provato sulla mia pelle e sono in lockdown vero, però non mi fido dei vaccini e non mi fido delle misure che si stanno prendendo. Quindi non sono un negazionista del virus e della sua pericolosità, ma dei modi con cui lo si sta combattendo. Se lo Stato darà la possibilità di risolvere questa pandemia attraverso le vaccinazioni, benissimo, libertà per chi non le vuole fare, però se accede alle cure sanitarie, se le paga, se le paga. Non so se si possa fare un'operazione di questo genere, la dico all'ultimo ascoltatore, però sente Magrini, questo clima che non è, chiaro che non è diffusissimo, però un pezzo di questa sfiducia anche nei messaggi WhatsApp che ci stanno arrivando dagli ascoltatori, c'è questa sensazione di sfiducia, come la si affronta? Meglio la si deve affrontare con serietà, impegno vuol dire non sottrarsi a un confronto con queste persone. Mi sembrano comunque tutte un po' preoccupate di trame o dietrologie, o che ci sia qualcuno che possa, diciamo, rifregarci o avere intenti secondari. Certamente il mercato farmaceutico è un mercato complesso, molto regolato, ma anche molto profitable, e quindi per molte industrie l'immagine di mirare al profitto è un'immagine che pagano, perché evidentemente hanno anche fatto scelte a volte in questa direzione. Credo però che i vaccini rappresentano uno dei principali successi della medicina. È scomparso il vaiolo, è scomparso la poliomielite dalla maggior parte del mondo, malattie gravissime. Non si prende il morbillo e le encefaliti da morbillo, eccetera, eccetera. Poi, se vuole, c'è una gradualità di malattie via via meno gravi, di varicella non ne hai morto nessuno, ma poi ti viene lo zoster, che se vaccinati non prendiamo. Questa malattia è gravissima? No, non è l'Ebola, però certamente sta creando parecchi problemi e la popolazione anziana ne soffre molto. Ecco, credo che il vaccino, una volta che ne vedremo i dati, diventi uno strumento insieme ad altri che avremo, come i monoclonali, speriamo di vederli via via più efficaci, a disposizione di tutti. Non penso che possiamo vendicarci sui non vaccinati, no? È come non fare un bypass aorto coronarico a un fumatore, insomma. Erano uscite anche posizioni di questo tipo, ma la medicina è bella e etica perché cura tutti, ecco, anche gli inadempienti, gli scorretti, i furbi e quelli che non pagano le tasse. Quindi la medicina cura tutti. In un sistema universalistico come il nostro si deve occupare di tutti, quindi bisogna occuparsi anche attivamente con piena disponibilità anche dei cosiddetti Novax che sembra un gruppo molto eterogeneo. Buon punto quest'ultimo, Magrini. Roberta Villa, una giornalista, divulgatrice scientifica, autrice del libro Vaccini, il diritto di non avere paura, pubblicato da Pensiero Scientifico. Roberta, buongiorno, bentornata ai nostri microfoni, eccoci qua. Buongiorno a tutti. Hai sentito qual è il tema di fondo, no? Come l'affrontiamo questa cosa? Come si comunica con le persone che non si fidano? Bisogna guardare all'atmosfera di fondo, cioè in questi mesi noi abbiamo creato un'atmosfera che ha minato a fondo la fiducia delle persone nei confronti delle istituzioni, nei confronti della scienza. I dati di Observa mostrano proprio questo, come nel corso di questi mesi la fiducia delle persone è stata notevolmente erosa dalla comunicazione che c'è stata, da come è stata gestita la pandemia. Pensate che perfino nei confronti degli esperti una persona su quattro oggi è molto meno fiduciosa di quanto era all'inizio della pandemia. Il 60% pensa che gli esperti stiano contribuendo a fare una grande confusione. E quando c'è un clima di confusione, quando c'è incertezza, l'atteggiamento delle persone è piuttosto di non scegliere, piuttosto che di fare una scelta sbagliata. Quindi il problema non è come fare una comunicazione specificamente nei confronti del vaccino contro Covid, ma di cercare di cambiare questo clima di infodemia delirante, per cui nel corso dello stesso programma tre esperti diversi lanciano tre messaggi contraddittori, perché altrimenti le persone perdono veramente fiducia, e la fiducia è l'ingrediente fondamentale per una adesione adeguata ai programmi vaccinali. È un ottimo punto che allarga il campo. Enrico dalla provincia di Udine, velocissimo, prego. Enrico, ci sente? Eccomi. Spenga la radio, ancora non lo sa, spenga la radio, su, spenga la radio, se no c'è l'eco dall'altra parte, risento me stesso. Eccomi qua. Eccoci, prego Enrico, veloce. Alla domanda, è previsto che i candidati al vaccino siano sottoposti a un test per vedere se sono già entrati in contatto con il virus, visto l'elevato numero di asintomatici nella popolazione? Oh, questo è un buon punto, Enrico. Magrini, come vengono selezionate le persone che poi partecipano al test, quei 44.000 e quei 30.000 che ci diceva prima? È in maniera casuale o semplicemente non lo sappiamo perché, come ci diceva, le aziende farmaceutiche, i dati, la disclosure completa non l'hanno ancora fatta? Perché disclosure parlerei, che riguarda il conflitto di interessi, che è un altro tema molto importante per generare maggiore fiducia nella confusione degli esperti, cui faceva riferimento la dottoressa Villa, e sono molto d'accordo con quanto da lei detto. La conoscenza esatta delle popolazioni e come sono state identificate, nonché reclutate, non ce l'abbiamo, ma penso abbiano identificato principalmente categorie a rischio, quindi verso l'età maggiore, cioè gli anziani, In paesi con epidemia attiva. Questo è stato lo scopo degli studi. Per rispondere alla domanda provenuta da Udine, secondo me occorre fare una riflessione sul fatto che anche coloro che hanno avuto la malattia, tra i quali mi metto, anche con buona risposta anticorpale, credo che possano essere buoni candidati ai vaccini, poiché non sapendo il mantenimento della mia stessa naturale risposta immunitaria quanto dura, e vedendo che la risposta ai vaccini sembra essere più elevata e potrebbe essere anche più duratura, io non penso che si dovrebbero fare screening per valutare la risposta anticorpale prima di somministrare i vaccini. La domanda è giustificata, ma siccome sembra non essere un'immunità permanente contro questo tipo di virus, io penso che sia etico suggerire che siano tutti nuovamente vaccinati, o per la prima volta vaccinati, anche i sopravvissuti dalla malattia che esiste, visto che l'abbiamo presa. Abbiamo ancora tante domande degli ascoltatori, però purtroppo dobbiamo chiudere. Magari più avanti, quando avremo qualche dettaglio in più su questi vaccini, se vuole tornare da noi Magrini saremo lieti di ospitarla. Grazie Nicola Magrini, direttore dell'Agenzia per il Farmaco. E Roberta Villa, mi spiace per il poco spazio, Roberta, torneremo anche da te sicuramente. GR24, noi ci risentiamo domani mattina alle 6:30. Ciao. Il lavoro cambia. Cambiamolo in meglio. Inaz.it vi ha presentato Inaz 24 mattino.